여기 왔지 오네. 라디오아치오네.org 라디오아치오네. Contro informazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione. Radioazione.org. Radioazione. Contro informazione, letture, provocazioni, musica. Reazione 3 giugno, mercoledì 3 giugno, oggi si va di mercoledì perché non perché abbiamo fatto la prefestività della festa della Repubblica, ma perché avevamo come al solito i cazzi nostri, quindi abbiamo spostato ad oggi la diretta d'azione. Ricordo che stiamo leggendo, facendo la lettura di Retrofuturo, un libro fatto da tanti micro mini racconti di Vittorio Curtoni, e invece poi la controinformazione è quella classica, anche se per la diretta di oggi si inizia un nuovo corso come era iniziato per il sito, e preferiamo dare più analisi, più idee messe su testo, o anche idee che vengono fuori dai testi di azioni, comunque qualcosa che porta una ventata di nuovo nel mondo anarchico, non limitandoci a fare il telegiornale, anche se la reazione non l'ha mai fatto il telegiornale, perché comunque con una scadenza di una volta a mese un testo a prima radiazione c'è sempre stato, rispetto a tanti altri siti che mandano solo notizie a ripetizione senza dire nemmeno la loro su quello che pubblicano, forse molto spesso senza nemmeno leggerle. Quindi si è iniziato, ovviamente ci saranno sempre anche le notizie di controinformazione sul sito di radiazione, però ci limiteremo giusto a dare la notizia se succede qualcosa che riteniamo importante che vada pubblicata, altrimenti ci sono i siti e i blog dove potete andare a leggere. Ricordiamo gli indirizzi utili per radiazione: radiazione@artistici.org, la mail dove potete scrivere, mandarci dei consigli, mandarci delle critiche, fate voi, la mail sta là. Quindi è aperta, la se mandate materiale, nuove analisi, nuove critiche, a noi fa solamente piacere, perché come dicevo prima si cerca di cambiare strada con radiazione, poi dopo leggeremo anche il testo o si cambia sicuro. Il blog, il sito è invece radiazione.org, dove potete leggere tutta una volta dicevamo la controinformazione quotidianamente aggiornata, invece ora leggerete anche ogni tanto la controinformazione non quotidianamente aggiornata, tante analisi. Da sito potete scaricare quel po' di materiale dalla pagina download, come libri, opuscoli, cd, manifesti, oppure riascoltare le dirette d'azione attraverso i podcast nella pagina podcast radiazione. Il sito è bilingue, c'è quello italiano che almeno compagni italiani conoscono in tanti, e c'è anche quello in croato per chi è croato e vuole leggere la notizia in lingua madre, diciamo lingua madre in croato. Al sito croato ci potete accedere cliccando sul banner che trovate in sidebar, e sito e radio vengono ospitati dal server anarchia.net, messo a disposizione a comando di Anarchist Library, che ringraziamo e salutiamo sempre per tutto l'aiuto che ci ha dato fino ad ora. Ora ci ascoltiamo un brano Cragen World Foundation, e poi dopo si inizia subito con il nuovo racconto per oggi di Vittorio Curtoni, tratto da Retrofuturo. Vittorio Curtoni del 1978, perché a noi piacciono anche le cose vecchie che non sono datate ma sono semplicemente situate in un tempo in cui hanno avuto ragione di essere scritte, ma non per questo perdono di una loro attualità. Rimando anche al sito a proposito di testi attuali scritti in ben altri contesti. Indoors. La sensazione, suppongo, di essere in una scatola. Da una parete all'altra, misurando con gli occhi le profondità dello spazio, costruendo equazioni approssimative per una definizione delle dimensioni, sdraiato adesso in poltrona, rivedendo le equazioni già impostate, vorrei morire. Com'è lungo quest'inverno e quanto freddo si sta accumulando sulle tele dei ricordi. E che desolazione il paesaggio deserto all'esterno e quante cose che non potrò più fare. I vecchi dischi in un angolo, spenti, come fotografie stracciate. Oppure, se alzassi gli occhi, le stelle che sono rimaste ancora lì nonostante la catastrofe mi guarderebbero come se io non esistessi. Guardatemi, non c'è qualcuno che possa guardarmi. Guardatemi, sto cadendo oltre il pavimento e non so se potrò mai atterrare. Una conversazione anteriore. Agli inizi, prima che la catastrofe si delineasse con sufficiente chiarezza, abbiamo speso un mucchio di tempo a inventare teorie. Joseph e io, accovacciati presso la coda dell'astronave, senza voltare lo sguardo verso il triplice sole di questo pianeta, cosa sarà? Chiedeva lui. E come faccio a saperlo? Dopotutto, sono 20 anni che siamo lontani da Terra, non possiamo mica averne un'idea. Mia moglie, ripeteva lui. Dio ti maledica, anch'io ho piantato Catherine là, ma cerco di non pensarci. E cosa me ne importa? Dimmi un po', cosa dovrebbe importarmene? Di morire o di sopravvivere? Tanto siamo qui in ogni caso, tagliati fuori dai contatti. Un mese, pazienza, calma. Tra un mese saremo in congiunzione. Appena atterrati, stupiti ancora del successo dopo 20 anni di sonno artificiale, dopo il freddo della cabina di ibernazione, coi piedi su questo suolo estraneo e questo triplice sole, queste tre grosse palle di fuoco che a rotazione illuminano il pianeta e non esiste mai veramente la notte. Ma la cosa più straordinaria fu vedere le rovine del bunker eretto dalla spedizione precedente e i relitti metallici della loro nave, tutto sparso per un raggio di chilometri. Abbiamo trascorso il primo giorno a fare analisi dell'atmosfera e della composizione chimica del suolo ed era tutto così straordinariamente simile a terra da lasciare sbalorditi. Joseph lo voleva ed è stato lui ad uscire per primo, l'ho guardato sul monitor scendere la scala e, un po' goffo, impacciato dalla tuta, ha spiccato un balzo per superare l'ultimo gradino e agitare poi le mani nell'aria verso l'astronave e sorridere. Che buffa sensazione, se lo ricordo, dopo tutto il tempo speso in allenamenti alla base sulla Terra, quasi una vita fa, perché un'ora dopo sono sceso anch'io e, quando abbiamo deciso che le tute erano solo un corpo mostruoso da rifiutare, le abbiamo tolte respirando questa atmosfera. E quando sono terminate le 24 ore di rotazione, scoprire tangibilmente che qui non sorgono lune e che i tre soli sono sempre nel cielo e che forse questo è il pianeta più luminoso dell'universo. Le rovine già le vedevamo in lontananza, ma abbiamo aspettato un poco prima di avvicinarci. Una notazione posteriore. Mi accorgo adesso di quello che ho scritto prima, ma in realtà qui non esistono dischi, non esistono case, tantomeno stelle. Non le possiamo mai vedere. Ho sonno, sonno, sonno, sonno, che questi occhi si chiudono prima o poi. Dalla nave al bunker. Volevamo percorrere il tragitto a piedi. Avevamo calcolato che non potevamo essere più di 7 chilometri, che in 2 ore tempo terrestre avremmo potuto farcela. Più tardi ci siamo resi conto che il secondo sole, quello che spunta nel periodo equivalente al primo pomeriggio, scalda la superficie fino a livelli intollerabili, e così abbiamo preso il ragno e siamo partiti. La macchina scavava con le sue 8 zampe solchi enormi nel terreno, avanzando goffamente, e ogni tanto si impigliava in uno dei cactus che crescono qui, e ne ha divelti un paio lungo il percorso. Guarda, diceva Joseph, guarda là, è straordinario, hanno costruito un bunker. Pazzi, imbecilli, ma è impossibile, non avevano il materiale. Attraverso il grosso schermo di plexiglass che sta sulla fronte del ragno potevamo vedere tutto. Il bunker si andava delineando a poco, un'ampia costruzione di pietra, enormi pezzi squadrati messi in piedi l'uno accanto all'altro, un equilibrio terribilmente precario, e intorno i pezzi disarticolati della loro nave. Erano 12 quelli della prima spedizione, 6 uomini e 6 donne. E perché noi siamo solo 2? Oh. E questi era Viper X con il brano Metal Storm, dopo la prima lettura di La Luce, il nuovo racconto che iniziamo questa settimana, con tratto dal libro Retrofuturo di Vittorio Curtoni. Invece ora si passa al primo testo, perché comunque è controinformazione, anche le idee sono controinformazioni, e quindi iniziamo subito con il testo scritto da me, a nome di Radiazione. Sono io che porto avanti Radiazione, quindi lo firmo Radiazione. Testo che dal titolo O si cambia o si muore. Quando qualche anno fa ho iniziato il progetto di Radiazione, non avrei immaginato che sarei riuscito a portarlo avanti per così tanto tempo e con un impegno così intenso. Solo le dementi eterne del bla bla bla non hanno voluto, non vogliono, non hanno tentato di capire che un sito o un blog come per esempio Radiazione o come tanti altri sono solo un mezzo di propaganda anarchica della controinformazione e non un'illusione allucinazione insurrezionale tipo quello che ha chi pensa di essere migliore per il semplice motivo che non si siede davanti ad un computer, anche se dubito molto seriamente che qualcuno non si sieda davanti ad un computer nel 2015. Se avessi avuto questa illusione mi sarei definito un rincoglionito o un nerd come dicono gli altri. Sì, proprio quegli altri, come i crociati incoerenti che chiamano le loro lotte con la negazione no, quelli che tra qualche mese, anno, potrebbero dar vita ad una nuova lotta chiamata No Web. È più facile schiacciare il pulsante di un PC per avanzare una critica? E cosa dovrei fare? Farmi la galera per essere andato a fare la scampagnata in montagna con preti, sindaci, assessori, ma anche la FA italiana, le associazioni, marxisti, leninisti e gli infami? No, grazie, già me la sono fatta con l'accusa di voler realizzare porcate tipo dittatura del proletariato e tribunali del popolo. Quindi qualcuno in passato ha già cercato di calpestare la mia dignità. All'area viziata di sedi, assemblee, incontri, iniziative che non portano a nulla, al moralismo, all'autoghettizzazione, al settarismo, al volemo sebbene ma pugnaliamoci alle spalle tra compagni, ho portato via la mia presenza, che fosse gradita o meno, non mi interessa. Penso per me e non alla salute dello stomaco altrui. Quindi ho cercato di dare un mio piccolo apporto o contributo alla controinformazione attraverso una web radio e un blog ai tempi poco aggiornato. L'operazione Ardire è stata la spinta che mi ha fatto salire la cosiddetta carogna ed ho iniziato ad aggiornare con più costanza quel blog. Grazie all'aiuto e alla totale disponibilità del compagno di The Anarchist Library, quel blog, divenuto un sito nel frattempo, è migrato verso un altro server che ci ha permesso di non avere più tutte le beghe e i sabotaggi, taglio più forte dei cavi della linea telefonica, che si subivano all'epoca specialmente riguardo alle dirette radiofoniche. E se oggi contiamo per ogni podcast di ogni diretta radiofonica dai 500 ai 600 download, vuol dire che non esistono solo i no web, ma anche compagni che vogliono ascoltare anche a voce, ma con tanto di approfondimenti, quello che di solito sulle pagine del sito appare sotto forma di testi. La radio è stata per me di fondamentale importanza fino ad oggi, permettendomi di non essere solo quel user sconosciuto della rete, come direbbero i no web, perché a dispetto di tanti ci ho messo la voce. Non ho mosso la mia critica e le mie analisi al buio, come non l'ho mai fatto anche negli anni prima, firmando i miei scritti con nome e cognome. Ho sempre accompagnato alle mie idee la provocazione. Perché? Perché sono un rompicoglioni nato, amo la sincerità, non odio tutte le contraddizioni e automaticamente ho sempre odiato le falsità, specialmente se trincerata dietro un falso anarchismo. Libertà è dire che 2 più 2 fa 4 e non a volte 3, a volte 5 e a volte 6. Non ho mai venerato nessun individuo per il fatto che in passato sia stato questo o quell'altro, un buon paroliere, un filosofo, un guerriero o perché abbia avuto la sfortuna di essere stato sequestrato dallo Stato. I ciechi, i perbenisti, i fedeli hanno visto nella mia critica ed alcune individualità anarchiche inopportuno. Io, a differenza di loro, tutto ciò lo definisco rispetto, in maiuscolo. Ditegli sempre di sì è un vecchio spettacolo teatrale di Edoardo De Filippo, in cui l'autore spiega come al matto di turno gli si dà sempre ragione per tenerlo buono o per non fargli pesare la sua malattia. Beh, io non dico sempre di sì. Chi ha un suo passato degno o il presente sequestrato dallo Stato, per me non è né un dio, sono ateo in tutti i sensi, né uno sfigato, né tantomeno un malato. A me non basta il passato di un individuo per dargli sempre ragione o evitare di dirgli che ha detto o fatto una cazzata. L'unica cosa che del passato di un individuo condanno, rispetto a tanti anarchici che condannano, io non ho paura di utilizzare questo termine, è l'essersi sporcato di infamia. L'infamia è un tumore e anche se si pensa di averlo curato può tornare fuori all'improvviso. Non è mai stato un attacco all'individuo il mio criticare, ma è semplice modo di dire: ma come, tu che parlavi e agivi diversamente, perché ora fai l'opposto di tutto quello? A mio modo di porre tali domande ne ho ricevuto un'accusa come infame, quando tutti sapevano a cosa mi riferivo e tutti hanno fatto finta di non sapere, forse hanno ritenuto ancora una volta inopportuno la mia critica o addirittura il silenzio. Sono stati più i compagni che sono venuti da me a dirmi che era inopportuno, anche se avevo ragione, che quelli che nessuno sono andati a dire all'offendente: ma che cazzo stai dicendo, non esagerare con gli insulti. Poi leggo che al confronto è molto meglio, più facile schiacciare un pulsante di una tastiera. Ci vuole coraggio a scrivere una cosa del genere o essere cieco e sordo da non vedere e non sentire. Le mie idee sono molto più al sicuro quando sto da solo o con quei pochi compagni che stimo, di sicuro non si disperdono perché non frequento il gregge. Ora dovrei scrivere Tornando a Radiazione per parlare della necessità di questo testo che state leggendo. A Radiazione sono io, me e me stesso. Il sito web invece subirà un tentativo di trasformazione, un ultimo disperato tentativo per non chiudere del tutto il progetto. Innanzitutto questo spazio non sarà più una sorta di telegiornale, tra virgolette, anarchico internazionale. Per quanto riguarda i compagni detenuti, verranno riportati maggiormente solo gli aggiornamenti sulla situazione dei compagni in Italia e solo in alcuni casi quelli dei detenuti in tutto il resto del mondo. Con tutto il rispetto per i compagni detenuti non italiani, il motivo che mi spinge a fare una scelta del genere è dovuto alla poca o in alcuni casi nessuna chiarezza da parte di chi fa controinformazione. Il definire compagno chiunque non fa parte delle mie idee, come non lo sono le guerre intestine in altri paesi da cui poi si decide se un individuo è un compagno o no, se dagli appoggio o no. Ovviamente i testi di analisi e critica dei compagni anarchici, e soprattutto quelli che sono sempre stati coerenti con le loro idee, verranno sempre pubblicati, tutto il resto no. Le azioni, se riferite alle lotte anarchiche, saranno pubblicate, altrimenti no. Le lotte, se hanno principi anarchici, verranno riportati, altrimenti no. Questa scelta è dovuta al fatto che mi tiro fuori dal calderone di tanti siti e blog anarchici fatti con il copia e incolla in svariate lingue, alcuni tradotti con Google, e che molto spesso non esprimono nulla. Penso che tanti anarchici hanno perso un'occasione per riutilizzare un mezzo come internet in modo diverso da quello di un social network. I selfie davanti agli striscioni o negli scontri di piazza, la creazione di un evento, quali possono essere le chiamate spesso fatte da singoli nerd individui a giornate di solidarietà, agitazione, ancora le foto delle scritte sui muri, il rilancio, come dicevano alcuni compagni spagnoli a mo' di cancelletto, di lotte fuori e dentro le carceri sono i sintomi della malattia della rete. A tutto ciò va aggiunto il comportamento da stampa borghese di qualche sito e blog che ha cercato di attirare a sé il potere virtuale della controinformazione con la richiesta della citazione del diritto d'autore sulla notizia che veniva presa dai loro spazi. Anche in questo caso tanti sono a conoscenza di queste schifezze, ma nessuno ne ha parlato. Nell'ultimo periodo avrei dovuto aggiornare molto di più la pagina dello scrigno, la pagina dove ci sono le perline anarchiche, ma onestamente sento la stanchezza anche nel cercare di fare ironia sulle stronzate che leggo. Questo è tutto il marcio che c'è stato in rete, e non le solite pippe scritte e riscritte dai soliti no web che poi riportavano su carta il lavoro traduttivo dei siti e dei blog o utilizzavano questi mezzi per invitare a richiedere le copie del proprio giornale. Da tutto questo, che non è una generalizzazione nonostante sia la stragrande maggioranza, Radiazione si tiene alla lontana e con la nuova scelta ancora di più. Diversamente da come è stato fino ad oggi, è dovuto alla scelta di una nuova linea da dare al sito di Radiazione, saranno pubblicate tutte le analisi affini e contrarie. Quindi invito tutti i compagni anarchici che ne hanno voglia e piacere di inviare i propri testi alla mail di Radiazione. L'invito è rivolto soprattutto ai compagni che hanno visto censurata la propria analisi o critica da parte del perbenismo anarchico, ma allo stesso modo è un invito alla nascita di nuove riflessioni che non siano un copia e incolla di altre. Questa è un'ultima possibilità che mi concedo. Se va bene sono contento, altrimenti si chiuda baracca e burattini e soprattutto in ogni caso nessun rimorso. Che partino gli scongiuri per chi si augura che Radiazione taccia per sempre. Radiazione, fine maggio 2015. Ecco, questo testo, penso molto esplicito, viene descritta la nuova strada che intraprenderà Radiazione, un modo diverso di fare un sito web, ce ne sarà sicuramente qualcun altro sul genere, però comunque non ci andava più di anche soprattutto di censurare molti testi di molti compagni detenuti che nel frattempo hanno fatto tutto e il contrario di tutto e detto tutto e il contrario di tutto. Avrei dovuto pubblicare e stare zitto, però ho sempre pubblicato e scritto la nota. Ora mi sono rotto i coglioni, non li pubblico e basta, così non si offende nessuno, ma si possono offendere attraverso la critica. E come è avvenuto già nell'ultima settimana da quando ho scritto il testo, è arrivato qualche testo di analisi e ringrazio i compagni che me l'hanno fatto avere. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Information Society, il brano è Sick 1300 e poi dopo si torna qui e si continua il racconto di Vittorio Curtoni, La luce. I'm not afraid to registrazione onirica. Al rallentatore le case hanno cominciato ad esplodere, come se il tuono che le squarciava dall'interno fosse frenato da un incomprensibile orologio retrogradro. Londra è saltata in 3 ore, New York è stata più veloce, ha impiegato solo 1 ora e 27 minuti. Mentre noi fluttuavamo in cielo, protetti dalle tute, osservando con angoscia la distruzione, la mia città, Nashville, non è mai esplosa, e neanche quella di Joseph, Ottawa. Questo sogno l'abbiamo fatto la prima notte trascorsa qui, tutti e due. Non abbiamo dormito più di 4 ore e quando ci siamo svegliati, i 3 soli erano alti sopra il pianeta e la luce era tremenda. Un incontro con Joseph. Joseph adesso ha la barba lunghissima e il viso gli è diventato molto magro. Vive nel bunker e si è trasferito lì da un paio di mesi e non teniamo più contatti regolari. All'inizio credevo che avremmo fatto meglio a restare uniti, ma da che abbiamo cominciato a disgregarci non lo penso più. Sarebbe insopportabile vedere la sua faccia ogni minuto, ascoltare la sua voce. L'ultima volta che l'ho incontrato mentre facevo un giro di ricognizione con il ragno stava presso le cave di pietra lasciate dall'altra spedizione. Dormi? Gli ho chiesto. Ha scrollato la testa in un no e si è tirato indietro i capelli con la sinistra. Sto perfezionando il labirinto, mi ha detto. Un omaggio alla loro memoria. Si è fermato un attimo sguardando i 2 soli che erano allora alti. Notizie dalla terra? Niente, silenzio, qualche scarica ogni tanto, merda. Poi gli ho dato una mano a far rotolare un masso dalla cava al bunker e mi è sembrato di diventare anche più pazzo, di toccare la mia follia, sentirla pesare tonnellate. Indoors, number 2. Le nevi si stanno accumulando sulla superficie, scendono a terra in falde gigantesche, grandi, quando le ali di certe farfalle tropicali, e prima di posarsi crepitano al contatto con l'aria. Dalla veranda posso vedere il lavoro che questo inverno eterno sta compiendo e mi viene una voglia disperata di uscire a distruggere tutto. La falce. Quando siamo arrivati nel bunker, quel primo giorno ci siamo accorti che era molto più lungo di quanto avessimo supposto e che la sua struttura all'interno era quella di un labirinto. Quelli della prima spedizione avevano accumulato massi e li avevano disposti a formare sequenze interminabili di angoli, angoli e angoli, angoli, angoli, angoli. Noi abbiamo impiegato 1 ora per percorrere metà del labirinto e ci siamo trovati in uno spazio interno perfettamente livellato, polveroso. Lì avevano eretto la falce. Joseph l'ha guardata alzando la torcia elettrica perché l'oscurità del bunker è assoluta e ha avuto un'espressione perplessa. Perché? Ha chiesto. Era un pezzo di lamiera dell'astronave piegato sino ad assumere la forma di una falce o di una mezzaluna. Stava appoggiato sopra una specie d'altare, 5 rozzi massi sovrapposti, vicini, accovacciati, i cadaveri di 3 dell'altra spedizione, voglio dire, i loro scheletri. Le prime 3 notti siamo riusciti a dormire 4 ore per volta, ma non c'era possibilità di liberarci dall'ossessione di quegli incubi e a ogni rotazione eravamo costretti a vedere le case scoppiare, le città esplodere, la gente riempire del proprio sangue il cielo. È stato così che abbiamo cominciato a prendere gli eccitanti. Non capivamo la ragione degli incubi e non riuscivamo a sopportarli. L'idea degli eccitanti è stata di Joseph, se ben ricordo. Una conversazione anteriore. Ecco, adesso ci siamo, attenzione, tra qualche minuto. Joseph col dito sul pulsante del trasmettitore, io col microfono in mano nel caldo dell'astronave, finalmente in congiunzione. Ma l'apparecchio non ha messo una sola parola, è rimasto morto per 2 giorni, l'intero periodo della congiunzione, lanciando a tratti scariche. Non è possibile, diceva Joseph. Devono sentirci, devono poter trasmettere. È inutile, non li sentiamo, non ci arrivano. Che facciamo? Dio, ci vorranno almeno 20 anni prima che tornino a prenderci. Non possiamo resistere in queste condizioni. Il viso di Joseph stravolto. Pensare di avere tutti i collegamenti tagliati, di restare sotto questi 3 soli senza notizie dalla Terra. un'altra registrazione onirica. Mio padre ha smesso di falciare il prato alle 7 di sera. È rientrato. Allora la casa ha avuto un tremito sottile, come l'inizio di un terremoto, e la prospettiva della mia visuale si è distorta assumendo un'angolazione acuta. Una leggera cortina di fumo si è alzata dal prato e intanto le onde sismiche si erano fatte più violente e sentivo nei muri urlare una loro invocazione. Poco per volta la casa è crollata abbattendosi sul prato e dal tetto frenato emergeva la mano di mio padre che si muoveva freneticamente. Quel sogno l'ho fatto la quarta di notte. Un tentativo di libera associazione di idee. Casa, albero, prato, giardino, scuola, silenzio, inevitabile, lungo anno, morte, sole, casa, occhi, sonno, vedere, voglia, sentire, urlo, cane, bestia, coda, occhi, morte. Ipotesi sulla catastrofe. Basandoci sulla mancanza di comunicazioni da terra dopo la prima congiunzione, 6 mesi dopo il nostro arrivo, abbiamo elaborato alcune ipotesi. Eins. La terra è esplosa. Zwei. La terra è stata distrutta da una guerra atomica. Drei. La terra è impossibilitata a trasmettere. Vier. Terra non esiste. Fünf. Terra trasmette, ma noi non la riceviamo. Sechs. Noi non esistiamo. Sieben. Stiamo impazzendo. Ci era impossibile credere che i nostri incubi non avessero una base reale. Nonostante non dormissimo da più di un mese, assopendoci solo nei momenti di più irresistibile stanchezza e per pochi minuti solamente, il ricordo dei sogni era vivissimo in noi. E c'era il fatto che terra non trasmetteva più, che forse nemmeno i nostri messaggi la raggiungevano. Per cui siamo arrivati a credere che quello che sognavamo fosse vero e che terra fosse realmente esplosa. E la cosa, sì, quella cosa, ci ha sconvolti. questi erano The Algorithm con il brano Pythagoras. Ora si ritorna alla controinformazione con un altro testo. Testo che mi segnala un compagno di Parigi che aveva letto il testo Si cambia si muore che abbiamo letto prima, e mi ha mandato questo testo che penso dovrebbe dare da pensare a molti. Allora, il testo ha per titolo Senza chiedere scusa. Tolosa, 21 febbraio 2015. Una manifestazione contro la diga di Sivan, e per qualcuno le nocività di questo mondo si accende come molti prevedevano e finisce in scontri con gli sbirri e danni a negozi, auto che ed arredamento urbano. Come spesso accade, purtroppo ci sono degli arresti tra i manifestanti. Tra di loro c'è François. Secondo le merde dei giornali sarebbe stato arrestato mentre sfondava a colpi di mazza le vetrine di un'agenzia immobiliare e di un negozio di arredamento. François rifiuta il processo per direttissima e passa quindi davanti al giudice il 25 marzo, dopo un mese di arresti preventivi. Ecco alcuni estratti della sua dichiarazione. Mi sono lasciato tirare, da una parte i poliziotti e dall'altra noi. Ho fatto l'errore di considerare i poliziotti come dei nemici, gli altri come miei amici. Mi è stata data una mazza, me ne sono servito, sono desolato. La giudice, che è una boia, non è una scema, gli chiede cosa ci faceva a Tolosa, visto che abita dall'altro capo della Francia, a Rennes, e per di più con una maschera antigas sul volto. François, che se la gioca da ex studente pagato e gentile, gli dice sono toccato dall'ecologia. La giudice, da buona boia, niente affatto scema, fa il suo lavoro e lo rimanda al fresco per altri 5 mesi, più 6 di condizionale e l'obbligo di pagare i danni. Milano, 1 maggio 2015, una manifestazione contro Expo, per qualcuno questo mondo nocivo si accende, come previsto anche dalle pietre, e finisce in duri scontri con gli sbirri e ingenti danni a negozi, auto e arredamento urbano. Come spesso accade, purtroppo, sbirri e magistrati si vendicano a freddo. Il 19 maggio Marco viene arrestato a casa sua. Secondo l'accusa avrebbe preso parte al pestaggio di uno sbirro, accusa secondo loro provata da alcune foto scattate da giornalisti e circolate sui media che lo ritrarrebbero a viso parzialmente scoperto. Durante l'interrogatorio di garanzia, Marco dichiara: ho visto che gli agenti portavano via una ragazza in modo violento, ho preso un bastone che si trovava per terra e ho colpito un poliziotto. Poi sono andato via. Ho agito in modo impulsivo, sono rammaricato e chiedo scusa al poliziotto. Non sappiamo se il fatto di mettersi a strisciare gli servirà per ridurre il conto in tribunale. Ma perché chiedere scusa? Perché annullare con un gesto di vile accomodamento degli atti di sincero coraggio e, cosa ancora più importante, le ragioni per le quali lo si è fatto? Possiamo comprendere il fatto di non voler peggiorare la propria situazione, ma nessuno pretende che si sputi in faccia al giudice. C'è chi lo fa e tanto meglio, ma è una scelta individuale. Basta stare zitti. Perché abbassarsi a quel punto? Per paura, per opportunismo che poi spesso non funziona. La paura è un sentimento umano, è comprensibile, ma non giustifica il tradimento né di altri né delle proprie idee. L'opportunismo, cambiare atteggiamento, cambiare discorso secondo l'opportunità, secondo la direzione del vento. Ma oltre a chi sceglie di rinnegare per beccarsi meno galera, c'è anche chi non può oppure per dignità a coerenza non vuole farlo, e quando qualcuno si presenta in tribunale come un bravo ragazzo, implicitamente sta già facendo una distinzione tra se stesso ed i cattivi. Ma allora perché andare a sfondare vetrine, perché randellare uno sbirro? Se pesto uno sbirro lo faccio perché quel servo in divisa mi fa schifo, perché finché esisterà uno sbirro la libertà sarà lontana. Oppure lo faccio per gregarismo o perché lo stanno facendo altri? Se vado ad una manifestazione che si preannuncia calda e non voglio problemi, non sfondo vetrine. Ci si potrebbe anche chiedere perché andare ad una manifestazione se non si vogliono problemi, e a cosa serve una manifestazione senza problemi, ma lasciamo stare. Se davvero voglio qualche brivido, resto a guardare come fanno già in troppi. come i troppi che fanno foto, una pessima abitudine che oramai è molto di moda tollerare. Tra l'altro, in quanti si paga la leggerezza di non volere allontanare con le buone, con le cattive, meglio con le cattive, giornalisti professionali o alternativi, tra virgolette, che vanno alle manifestazioni per manifestare, ma per fabbricare prove che spesso sono molto utili per polizia e magistratura. Qualche macchina fotografica, telecamera o smartphone spaccato in più vorrebbe dire dei compagni in meno in galera, quando ce ne accorgeremo? Ma torniamo al fatto di pentirsi dei propri cattivi impulsi quando va male. Qualche anno fa la chiamavano dissociazione, non c'è nessun obbligo di fare alcunché, ognuno fa solo quello che si sente, ma deve esserci la responsabilità delle proprie scelte, ognuno deve assumerle fino in fondo. E se credo davvero in quello che ho fatto, perché negarne le ragioni quando va male? Nessuno vuole martiri, ma come dice il proverbio, un bel tacere non fu mai scritto. Certi gesti parlano da soli, chiedere scusa significa che non erano fondati su ideali di liberazione, tanto vale allora andare a picchiarsi con gli sbirri allo stadio. Cosa significa assumere il proprio ideale rivoluzionario con tutte le conseguenze pratiche che ne derivano? Che appena va male le idee non sono altro che belle parole da accantonare? Perché questo tentativo di sfangarla a tutti i costi, anche a costo della dignità, se questa attitudine viene accettata, per esempio perché non si critica quando qualcuno sta in galera, allora in cosa gli anarchici e i rivoluzionari sarebbero diversi dalla sinistra? In cosa saremmo eticamente diversi? In cosa saremmo eticamente diversi dalla sinistra, in cosa saremmo rivoluzionari? Per le vetrine spaccate quando va bene e non ci si fa beccare non è abbastanza, i metodi non bastano, un mezzo è un mezzo e nient'altro, può essere usato da tutti. Anche un nazista può spaccare una vetrina o pestare uno sbirro. La mafia fa più vittime tra sbirri e magistrati di tutti i rivoluzionari d'Europa messi insieme. Non spargo una lacrima per loro, ma nemmeno plaudo alla mafia. Perché nella mia vita... Mi sto perdendo continuamente. Perché quello che importa sono le idee, un ideale di libertà individuale ed il modo in cui applico queste idee concretamente nella mia vita, con tutte le difficoltà e compromessi che non posso evitare. Quello che importa è la coerenza tra le mie idee e pratiche, ciò che significa tra l'altro un comportamento degno anche nell'avversità, il rifiuto di rinnegare le proprie idee. Questo tentativo di coerenza è una tensione sempre insoddisfatta, ma essa dà senso a quello che faccio e quello che dico, altrimenti l'anarchismo si ridurrebbe ad una sfilza di belle frasi, la rivoluzione a una chiacchiera come tante altre. La rivoluzione e anche i piccoli tentativi conflittuali che facciamo nel frattempo, sempre tenendo d'occhio quell'obiettivo forse lontano, ma forse dietro l'angolo. Chiederemo forse permesso? E se poi andasse male, basterebbe chiedere scusa? Meglio maleducati che venduti. E questo è il testo scritto in Francia da un anonimo, non ha messo nessuna firma, o un gruppo anonimo, non si sa chi l'ha scritto, però fatto sa che il compagno francese ce lo segnala come testo scritto da quelle parti. In cui ci rispecchiamo e che andrebbe letto molto approfonditamente e dovrebbe far pensare a molte cose per il futuro, anche per chi crede nella lotta di strada. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono schizzo.com, il brano è Aenemia, e poi dopo si ritorna qui con il racconto di Vittorio Curtoni, La luce. Oh, confessione. Quando ci siamo trovati di fronte alla falce, quando l'abbiamo vista con i nostri occhi e non avevamo mezzo di negarne la realtà, mi sono sentito male. I tre scheletri accucciati lì vicino, i massi, nel labirinto tutto intorno, i pezzi squarciati dell'astronave, forse strappati dall'esterno, i tre soli in cielo. A nessuna di queste cose ero preparato, nessuno ne aveva mai parlato alla base. Sono morti qui, ha detto Joseph accennando agli scheletri, e non ce n'era ragione. Vedrai, succederà anche a noi, non so perché, ma di qui non ne usciremo più. Poi abbiamo ripercorso il labirinto all'indietro, perdendoci di continuo negli angoli delle svolte, e stavo veramente male. Indoors tree. In realtà la terra non esiste più, e qui non cade neve, non è mai caduta, c'è solo il caldo di quei tre enormi soli. Ma mi piace immaginare un'altra situazione, un inverno interminabile sul mio pianeta, un'angoscia, sì, un'angoscia, diversa però da questa angoscia, un'angoscia opposta. Vedo la neve che sta cadendo, sento il gelo di quel mio inverno fittizio, tremo per il freddo, ho sonno. Davanti al bunker. Supponiamo che siano arrivati qui regolarmente, che non sia successo nulla all'astronave, mi sembra la cosa più ragionevole. Perché hanno costruito il bunker? Per nascondersi. Da cosa? Non lo so. E la nave? Cos'è che l'ha distrutta? L'hanno usata per costruire la falce? Vorresti dire che l'hanno fatta a pezzi solo per ricavarne quella specie d'altare? Forse, non lo so. E perché? Dobbiamo decifrare la loro simbologia. Il giorno dopo abbiamo trovato le cave, tre, a qualche centinaio di metri dal bunker. Hanno scavato il terreno col bulldozer per estrarne i grandi massi irregolari con cui hanno eretto la costruzione. Li hanno levigati, i massi, al possibile con degli scalpelli. Poi si sono costretti a trascinarli a mano fino al punto dove avevano deciso di erigerlo, il bunker. Ci sono ancora i solchi nel terreno, qua e là. Sei uomini e sei donne. All'inizio abbiamo pensato che fossero completamente pazzi, tutti quanti loro. Un'ipotesi sui tre soli. Dopo il primo mese abbiamo smesso di prendere gli eccitanti perché non riuscivamo più a dormire. Per altre sette di notte ci siamo addormentati, ma brevemente abbiamo segnato gli stessi incubi. Joseph era disperato, continuava a ripetere che Ottawa era esplosa e sua moglie era morta e che non poteva più restare qui. E io ho continuato a vedere il crollo della casa di mio padre. E i tre soli, o uno o due, erano sempre in giro. Joseph ha detto che forse non esistono realmente, forse sono solo proiezioni della nostra psiche tarata. Comunque l'oscurità non entrava più nell'astronave e non serviva a niente spegnere l'intero impianto di illuminazione. Li avevamo negli occhi, quei soli. Dopo i primi 45 giorni non siamo più stati in grado di dormire. Noi di notti non ne abbiamo più. Nel bunker, Joseph continua ad ampliare la struttura del labirinto. Spera di arrivare al punto di rottura, di spezzare l'equilibrio ecologico del pianeta. Si chiede se quelli dall'altra spedizione adorassero la falce. Gli scheletri dei tre individui accucciati vicino all'altare, dice, stavano, sì, loro stavano eseguendo un rituale. In effetti, questo è un pianeta morto. Una teoria sulla falce senza martello. La falce è la luna. La luna è la notte è il sonno. Una teoria sulla memoria. Miliardi di anni fa, forse, un periodo in cui la luna non era ancora comparsa nel cielo della Terra, portiamo dentro la memoria razziale di quel periodo, forse quando due soli si alternavano sul nostro pianeta e non permettevano la nascita della notte. Su, dalla spina dorsale, dai livelli più profondi, il ricordo di un'eterna veglia anfetaminica all'origine della vita. Solo più tardi la luna e la notte, di conseguenza il sonno. Una teoria sul bunker. Il bunker è la strada verso la notte. La sua stessa struttura labirintica, complessa e irresolubile, indica una simbologia sin troppo semplice. Volevano arrivare sempre più in fondo al cuore della notte, le viace, della nuit, per lasciare fuori tre soli, per immergersi nell'oscurità. Devono averlo costruito poco tempo dopo il loro arrivo, quando hanno cominciato a capire che non avrebbero più potuto dormire. Comunque, non è servito. I tre scheletri, forse gli ultimi sopravvissuti, quelli che hanno eretto la falce, l'assenza di tutti gli altri, si saranno distrutti a vicenda, trascinando nella rovina anche l'astronave. Sul futuro, un'ipotesi. Mi chiedo quanto sia durata la loro agonia. Noi due ormai sono millenni che non dormiamo e siamo già sull'orlo del precipizio. Joseph nel bunker, io sulla nave e i tre soli. Uno, due, tre, ein, zwei, drei, chi, ich, in cielo. E quanta, sì, quanta luce! Just a little bit. E questo era Pig con il brano Content. Ora si ritorna alla controinformazione, lo facciamo con ancora un nuovo testo di analisi e di critica che arriva dalla Grecia a firma del gruppo anarchico Sinfonia del Caos. Testo che comunque continua anche, continua, non è che l'abbiamo fatto prima noi e poi hanno continuato gli altri, ma continua il discorso sullo sciopero della fame degli anarchici e dei prigionieri politici in Grecia. Il testo per l'appunto ha per titolo In occasione dello sciopero della fame degli anarchici e dei prigionieri politici. Allora, iniziamo il testo che lo suddividiamo in tre parti perché è un po' lunghetto. Un supplemento necessario ad ogni lotta è la sua rivalutazione alla conclusione della stessa. Le azioni dei suoi soggetti, le questioni, le carenze e le problematiche incontrate, la relazione creatasi e le percezioni sviluppate, è auspicabile che diventino oggetto di riflessioni allo scopo di accrescere la nostra complessiva posizione contro l'esistente, traendo utili conclusioni e facendo autocritica. Questo testo non pretende di essere una completa valutazione della detta lotta, non ha intenzione di approfondire eventi specifici, attività, punti di vista e comportamenti che si sono verificati all'interno del movimento di solidarietà, né problemi generali e patologie dell'ambiente anarchico. Inoltre, ogni discussione sulle lotte e movimenti specifici riguarda i loro partecipanti e coloro che intendono continuare a lottare sotto le condizioni di questi movimenti. Dopo una così lunga e intensa attività e pratica di lotta, siamo in grado di esprimere il nostro parere su varie questioni, come le lotte intermedie, lo sciopero della fame come mezzo di lotta, le relazioni tra i detenuti anarchici e quelli solidali con loro, la relazione tra gli anarchici e i progetti con richieste politiche e molte altre. Quindi, data la possibilità, prenderemo una posizione su quelle che consideriamo più importanti, cercando di condividere le nostre preoccupazioni e le nostre conclusioni. Sciopero della fame come strumento di lotta. Lo sciopero della fame è uno strumento di lotta usato da detenuti anarchici, politici e criminali in Grecia già da decenni con relativa frequenza. Questa frequenza ha l'effetto di innescare automaticamente il sostegno, la solidarietà e la partecipazione nel rispettivo movimento, che non favorisce però la critica anarchica non solo a ogni singolo caso ma anche allo stesso strumento. Quando si svolge nella condizione di prigionia, lo sciopero della fame è infatti uno degli strumenti di lotta più difficili che un prigioniero dello Stato ha a sua disposizione. Tuttavia, lo scioperante riconosce il nemico come partner negoziatore e pone delle richieste in un processo di ricatto alla maschera umanitaria dello Stato, e quindi tali mezzi non rappresentano caratteristiche aggressive della lotta anarchica. Questa caratteristica passiva basata sulla natura postulante dello sciopero della fame è una realtà che noi critichiamo, ma lo facciamo sempre in relazione alle particolari condizioni materiali nel campo ostile del carcere. Non può essere quindi confrontato con gli strumenti di lotta all'esterno del carcere. Presenta tuttavia una caratteristica speciale che deve essere sempre presa in considerazione. È per definizione autodistruttiva in termini di logoramento biologico e di solito porta a permanenti problemi di salute. Questo non significa che la lotta contiene dei rischi che devono essere evitati a tutti i costi, basati solo sul criterio della sopravvivenza. Significa però un'attenta selezione di battaglie e una loro corretta organizzazione e non certamente una facilitazione dello strumento che il nemico ha architettato contro di noi. Qua non è saggio per gli scioperanti della fame e per chi li supporta di affrontare l'argomento con l'idealismo che concepisce questa scelta come un'abnegazione e considera il combattente anarchico un martire per la causa superiore o trascura opportunisticamente o per frustrazione la burocrazia del sistema giudiziario carcerario portando ad un vicolo cieco o alla sconfitta di una posizione, di fatto di sconfitta del detenuto. Le scelte personali degli anarchici dovrebbero, secondo noi, essere fatte in base alla loro decisione di vivere una guerra permanente a più livelli con il dominio. Questa decisione è presa perché il suo soggetto comprende che l'artificio mediato dall'autorità della merce e della vita spettacolo nell'odierno desetto sociale è falso e imprigionato. Quindi è una decisione per la vita e non per il sacrificio e la morte. In breve, riteniamo che uno strumento estremo di lotta non può essere utilizzato come un passepartout, scelto incautamente e utilizzato in modo disorganizzato e rovinoso, senza calcolare il contesto socio-politico e senza prendere in considerazione l'assolutezza e il peso storico-politico dei mezzi e anche la saturazione a cui è soggetto mediante tale utilizzo, portando in questo modo all'inefficacia e alla banalizzazione dell'esistenza fisica dello stesso scioperante della fame. Tuttavia lo sciopero della fame, con i problemi esistenti sopra menzionati, è una scelta personale, le cui componenti non siamo sempre in grado di conoscere, e quindi si lascia al temperamento, all'analisi, alla possibilità reale e alla disponibilità degli anarchici detenuti che l'hanno presa e quali sono responsabili per la comunicazione con i compagni solidali su questioni di strategia e sviluppo della lotta. Questa era la prima parte del testo dei compagni greci che si firmano come Sinfonia del Caos. Lo ripeto, leggeremo questo lungo testo in tre parti, quindi ora ci ascoltiamo prima un brano, loro sono Alter der Ruin, il brano è Kill the Noise, poi si torna qui prima con un'altra lettura e un nuovo racconto tratto da Retrofuturo di Vittorio Curtoni, e poi dopo la seconda parte del testo dei compagni greci di Sinfonia del Caos. Anticipato dalla prima voce di Radio Azione, adesso passiamo ad un altro racconto da Retrofuturo di Vittorio Curtoni, e questa volta andiamo ancora più in là con gli anni. Prima eravamo nel 1978, adesso ci ritroviamo nel momento della scrittura nel 1976, e invece che la luce adesso leggiamo nel bunker. Incrociandolo, James lo gratificò di uno di quei sorrisi che riservava alle occasioni importanti, gengive scoperte e denti in mostra, per dare al momento il tocco di solennità che solo le cerimonie di gruppo avevano. «Allora stai bene?» gli chiese, sfiorandogli in un tocco leggero l'attaccatura della spalla. Lui si ritrasse d'istinto refrattario a quel contatto che dissolveva la magia di un attimo prima. «Ma vai a farti fottere!» digrignò e corse veloce lungo i corridoi, lungo i meandri del bunker. James gli rimase indietro, impietrito, una figurina indistinta che le prospettive del settore alimentazione rendevano ancora più minuta, più insignificante. E i pattini di Peter divoravano il terreno, consumavano i metri, lo avvicinavano al grande dispensiere, che qualche minuto dopo lo accolse dal fondo di una noia senza storia. «Buongiorno e benvenuto», gli disse, squadrandolo con occhio critico. «Ma se non sbaglio ci siamo già visti stamattina, in che cos'è che posso servirla?» I grandi orologi appesi alle pareti della dispensa regalavano implacabili il loro ticchettio alle sue orecchie. Lui aveva la voglia di morire, di scomparire, di annullarsi. «Marmellata», balbettò. «Mia moglie vorrebbe della marmellata di prugne, se è possibile, naturalmente». Il dispensiere ebbe una smorfia veloce, pregnante. Lui si sentì un delinquente e i pensieri gli fuggivano via. «Che cosa gli facciamo qui? Che cosa vogliamo? Perché io mi trovo qui poi?» L'altro si piegò dietro il bancone mostrandogli solo la schiena coperta dall'uniforme azzurra. Lo udì bestemmiare con calma, senza fretta, come in un rituale stabilito da secoli. Lo vide rialzarsi con un barattolo pieno di una sostanza grigiastra, anemica. «La migliore», sentì dire, «roba come questa non si trova a girare tutto il rifugio. La vuole assaggiare?» «Gesù Cristo», pensò lui. «No, no, grazie», rispose. Mi fido, arrivederci». Afferrò il barattolo e riprese il contatto con il suolo, spingendosi in avanti. I pattini scivolavano sulla superficie lucida di cemento. Le sue idee si perdevano nei meandri di una realtà che era scomparsa, fagocitata dall'esplosione di tutte le bombe a disposizione. «Due punti», sognava. Prati verdi, bambini con il filo dell'aquilone tra le mani, e un mondo, sì, un mondo molto poco radioattivo. Le quattro mura squadrate gli davano il vomito. Sua moglie Wanda lo accolse col sorriso sarcastico che le conosceva da sempre, con quel corpo secco, magro, che ormai non gli regalava più emozioni. «Eh no, hai trovato la marmellata?» chiese. Il tono retorico era così denso di sfiducia da impietrirlo, l'ultima cosa di cui avesse bisogno. «No!» gli rispose, scaraventando a terra il barattolo ricevuto dal grande dispensiere. E il vetro si ruppe, ma senza eccessivo rumore, e il liquido grigio prese a colare sul tappeto, a infangare quelle immagini del passato che a lei erano tanto care. «Le prugne, come sai, sono finite, è rimasta solo questa merda». «Wanda, Si precipitò a terra come una iena latrando. Il suo viso era stravolto in una smorfia che gli era impossibile comprendere o razionalizzare. Le mani frenetiche percorrevano il tessuto del tappeto, raccoglievano gli sbuffi di marmellata. E la lingua, sì, la lingua come quella di un cane, si abbassava a leccare il pavimento del loro minuscolo appartamento. Una volta eravamo vivi, sentenziò lui, didascalico. Una volta eravamo veri, prima di finire qua sotto. Sai, ti volevo bene. Sei stata la prima donna con cui ho fatto l'amore. Ma il respiro di lei era ansimante, rabbioso, facce estranee lo guardavano dagli angoli del rifugio. Una delle facce disse: allora Peter, e gli strizzò l'occhio. Eccoli lì, gridò lui, improvvisamente terrorizzato, improvvisamente refrattario. Li vedi? Cristo, Dio, cane, non dirmi di no, non dirmelo. Ma sua moglie assente continuava a sbavare sulla roba collata sul pavimento. You were saying something about best intentions. What's the matter? Oh, you were finished. Well, allow me to retort. Yeah. allow me to retort. E questi erano Ubabyte con il brano Say What. Ora si ritorna al testo dei compagni greci di Sinfonia del Caos, passando al secondo paragrafo del testo, la lotta dentro le mura. Tuttavia, a parte la natura dei mezzi, va detto che lo sciopero della fame, come ogni altro strumento, di per sé non vuol dire nulla, perciò allo stesso tempo dobbiamo esaminare le condizioni in cui avviene e soprattutto l'atteggiamento e le strategie dei soggetti che lo utilizzano. Il recente sciopero della fame offre questa opportunità, in quanto si tratta di unica lotta dei detenuti anarchici e politici, di quanto ricordiamo qua in Grecia, che ha posto un quadro ampio e completo di richieste su qualche argomento specifico, e in questo caso contro l'arsenale repressivo e legale dello Stato. Poi, tenendo questo a mente, cercheremo di fare una distinzione tra le lotte che sono essenzialmente riformiste e aspirano a cambiare il quadro istituzionale e quello che mirano ad alleggerire le condizioni carcerarie e la scarcerazione. Così nel recente caso abbiamo la lotta dei detenuti, in cui soggetti pungono anche in termini generali un contesto di richieste che mira all'abolizione delle leggi, delle disposizioni di legge e cambiare il quadro giuridico di alcune attività operative del complesso poliziesco giudiziario. Abbiamo cioè una lotta che è riformista nella sua essenza, con tutto ciò che questo significa da un punto di vista anarchico. Il modo in cui è stata promossa si basa sulla logica dell'opposizione rivoluzionaria del movimento, e questo è evidente non solo dalle richieste, ma anche da un certo numero di cose relative alla mentalità politica della lotta, come la scelta tattica del presente momento mentre Syriza è al governo. Si potrebbe dire, e in alcuni comunisti il sciopero della fame era implicito con sufficiente chiarezza, che il contesto delle richieste dello sciopero aveva la forma del movimento del progetto di legge promosso nelle piazze del movimento di opposizione. Proprio a causa di questa natura c'è un'altra differenza con gli scioperi della fame del passato: il contesto delle richieste non riguardava solo i detenuti, ma forse ancora di più tutto questo movimento, il che significa in teoria che questa volta non era presente la separazione tra i detenuti e i loro solidali, ma una lotta comune in cui ogni parte ha partecipato equamente con i mezzi a disposizione ed ogni parte in lotta. Questo è evidente anche dalla dichiarata intenzione di una grossa parte di iniziative solidali organizzate per collegare lo sciopero con il più ampio progetto di opposizione rivoluzionaria, comprensibile per coloro che hanno una concezione politica della lotta anarchica. Molto può essere detto se il sopra menzionato teorema del movimento ha funzionato e sulla strategia e la tattica impiegata dai partecipanti in questa loro avventura. Però adesso, osservando la lotta da questo punto di vista critico, non affronteremo queste domande. Diciamo adesso perché riconosciamo in autocritica la nostra posizione in questa lotta è stata anche dalla parte sbagliata, come lo è contraddittoria per gli anarchici che non hanno sperimentato la condizione di prigionia per fare delle richieste e negoziare con lo Stato. Invece di sostenere in termini di solidarietà quei detenuti con cui condividiamo l'affinità, pur rimanendo critici verso il contenuto politico riformista della lotta, noi ci siamo uniti sostenendo una parte del contesto delle richieste e di conseguenza questo ci ha fatto in certo senso controfirmare alcune delle richieste. Prima di articolare una visione d'insieme, consentiteci uno sguardo alla seconda parte della distinzione che abbiamo menzionato prima. In contrasto con le condizioni sopra, vi è una ricca esperienza di lotte dei detenuti anarchici con sciopero della fame o meno, che avevano per richiesta o l'alleggerimento delle condizioni carcerarie o addirittura il loro rilascio dal carcere. Tali esempi sono le lotte per la cessazione delle sanzioni disciplinari, le lotte contro il deterioramento delle condizioni carcerarie, eccetera. Questi casi rimangono nel contesto delle richieste, che sono a volte delimitate dall'obiettivo tattico e si svolgono comunque in un ambiente dove solo simili contesti possono essere posti, e nello stesso tempo esprimono una mentalità combattente e rifiuto di alienazione dell'ambiente carcerario. Qui il coinvolgimento degli anarchici fuori dal carcere è per forza separato e si muove esclusivamente nel campo della solidarietà verso il soggetto della lotta, e dato che la richiesta è personale ed è legata alle condizioni carcerarie, ha un ruolo secondario come criterio di supporto. Questo naturalmente non significa che il quadro generale in cui la mobilitazione di qualcuno avviene non è importante. In ogni caso ci sono diversi fattori che necessitano di essere analizzati, l'idea generale tuttavia rimane la stessa. A questo punto vogliamo parlare di una problematica per noi importante che è stata sottolineata più che mai nello sciopero della fame di massa dell'estate del 2014 contro il disegno di legge delle carceri di tipo C, in cui il soggetto della lotta era un insieme sfocato radunato in base all'identità carcerato. Come noi concepiamo le lotte dentro e fuori dal carcere, ogni investimento delle masse che non solo non hanno niente a che fare con l'anarchia, ma costituiscono anche nella grande maggioranza una parte integrale della palude sociale, è a noi totalmente avverso sul campo esistenziale e costretto a fallire quando parliamo in termini tattici. Soprattutto in caso delle lotte all'interno del carcere, dove il grado di integrazione di questi soggetti è molto elevato, che di fatto rafforza le tesi di sopra, noi non riconosciamo soggetti collettivi di lotta, soprattutto quando sono costretti con l'intrappolamento nelle condizioni avverse come unico criterio. Non dimentichiamo inoltre la conclusione del detto sciopero della fame, che collassò come un castello di carte dopo circa 8 giorni, confermando il fatto quando il detenuto anarchico sceglie di prendere parte in una lotta in cui il resto dei soggetti non partecipa per combattere le condizioni ostili, ma su ordine di una mafia verticalmente organizzata o a struttura razziale, che per natura intrinseca una competizione crescente tra i gruppi organizzati, rendendoli inaffidabili e incapaci di eseguire una tale mobilitazione con sincerità, e allora l'unico risultato rimane l'auto-umiliazione della sua stessa lotta. Riassumendo, diciamo che la nostra visione della lotta anarchica non può accompagnare i movimenti, lotte e nozioni che mirano a riformare l'esistente, soprattutto quando il caso riguarda le mostruosità del carcere e le attività di questa porzione delle istituzioni del settore sociale, che rappresenta in prima linea di repressione contro di noi, vale a dire tutti i tipi di sbirri e giudici. Non comprendiamo la lotta in termini politici, ma in termini di guerra, e anche se strategie e tattiche parziali sono richieste nella sua durata, non può essere ridimensionata ad una opposizione radicale che a un livello immaginario gradualmente riformerà la fabbrica sociale fino a quando non diverrà amministrata dalla stessa, seguendo qualche altro modello di dominio. Per quanto riguarda i momenti di lotta all'interno delle carceri, li affrontiamo da un punto di solidarietà con i soggetti con i quali siamo in affinità, comprendendo da un canto le limitate possibilità di lotta dentro e le peculiarità di questa condizione, e dall'altro canto dall'importanza del sostenere ai nostri compagni che ad un certo punto di guerra si sono ritrovati rinchiusi nelle galere del regime democratico. Siamo tuttavia decisamente critici verso le richieste individuali e contesti nei casi come il recente sciopero, quando queste hanno un'impronta riformista. Questa era la seconda parte del testo dei compagni greci di Sinfonia del Caos, che in parte riprendono anche la critica fatta da Radiazione anche dai compagni macedoni sullo sciopero della fame riformista che è stato intrapreso anche da molti anarchici in Grecia. Ora ci ascoltiamo un brano e poi dopo la lettura e poi l'ultima parte del testo dei compagni di Sinfonia del Caos. Il brano che ci andiamo ad ascoltare sono gli Underrat, il titolo è Headshot, e dopo Vittorio Curtoni, Retrofuturo. Gentlemen, get ready. riusciva più a dormire e viveva sogni che erano troppo veri per essere falsi e troppo falsi per essere veri. Si alzava, caracollava fino alla minuscola toilette, si guardava nello specchio, il vetro, freddo. Gli rimandava l'immagine di un vecchio secolare, corroso, dalle rughe. Percorreva allora il viso con le mani in cerca di una conferma. Era morbida e tenera la pelle, come quella di un neonato. E le piaghe delle radiazioni purulente si aprivano in ampi crepacci, gli divoravano persino il sesso. A quel punto si svegliava, distrutto, ma da molto tempo aveva imparato a non urlare, a starsene quieto e zitto. Sua moglie, che gli ansimava a fianco stringendogli i pugni sul cuscino, il ticchettare discreto dell'orologio che non serviva più a niente perché il tempo si era tutto consumato in un singolo giorno. La pace del bunker che gli pesava addosso come una coperta d'acciaio. Odiava il mondo, odiava le cose e soprattutto odiava quello che li aspettava fuori. Aveva mezz'ora oppure un'ora per dirsi: la nostra generazione non rivedrà mai la luce del sole, marciremo qui da bravi vermi. Per schiacciare la testa contro il legno del letto e cercare di farsi male. Vorrei pagare, voglio pagare, Dio! Dammi la forza, implorava, e poi era da capo. In principio la luce verde, tenera, il bagliore che sembrava erba, lui sempre lì, aggrappato alle lenzuola, miserabile, indifeso, il rumore che saliva a rombo, mozzandogli il fiato, i bisbigli, i rochi, le voci maligne, il gioco delle ipotesi, il gioco delle malizie. Questi figli di puttana! Cominciavano a dire, sicuri al caldo, fetenti, le risate sottovoce, il gracidio di corde vocali che non avevano più nulla d'umano. Peter, Peter, si inseguivano l'eco. Qualcuno deve pur pagare, noi siamo imparziali ed è toccato a te. Ma lui, sì, lui scrollava le spalle di Wanda, tentava di distoglierla dal sonno, ma i mormori di lei erano torpidi e incostanti. Le labbra che gli rispondevano quasi per caso. Sua moglie non voleva essere mica distolta dalla sicurezza del buio. Gesù, Gesù, Gesù, svegliati, mormorava lui, appena prima che lo prendesse la paralisi, che scoppiava in un turbinio al primo apparire dei volti, al primo rigonfiarsi dei muri, quando le mani adunche, artigliate, mozze, innaturali, si tendevano verso il suo corpo a ghermirlo. E quel ridere continuo, quel bisbigliare, l'idea che l'apocalisse, nonostante tutto, fosse appena iniziata. Non ce la faccio! Urlava dopo un po', coprendosi le orecchie, chiudendo gli occhi. Non lo sopporto, per favore, svegliati, sono disperato, mi vogliono uccidere, svegliati! Ma lei lo guardava ogni volta con quell'insieme di compassione e disprezzo che lui, molti anni addietro, riservava ai cuccioli di cane che avevano sporcato casa. Ed era allora che tutto, sì, tutto scompariva. Quello che vorrei farti capire, ripeté Herbert osservandolo con distacco al riparo dietro la scrivania, è che almeno una parte di questo, sì, di tutto questo, è inevitabile, data la situazione. Voglio dire, soffriamo tutti di claustrofobia, no? E non sappiamo nemmeno se potremo tornare su un giorno o l'altro. E poi, bah, chissà che cosa ci troveremo lassù. E fece ticchettare dolcemente la punta della matita sul bracciolo della sedia, adagiandosi all'indietro. Tu, sì, tu sei stato fortunato, sei persino riuscito a portarti giù la moglie. E mica è successo a molti, ma questo, ascolta bene, non ti autorizza a sentirti onnipotente. Onnipotente io! Peter si rizzò a sedere sulla brandina con la precisa sensazione di avere di fronte un pazzo. Guarda che forse non ci siamo capiti, non farmi ricominciare dal principio. Vedo braccia e sento voci e ogni tanto qualche viso spunta fuori dal muro e tu non hai la più pallida idea. Ma il ruggito di Herbert gli troncò le parole. Non ho la più pallida Pallida, pallida idea! Urlò l'analista preferito di Peter, l'unico con il quale fosse riuscito a stabilire un dialogo. Testa di cazzo che non sei altro! Credi che per me sia facile? Credi che sia facile per tutti gli altri vivere qui sotto, in un merdoso rifugio antiatomico, con quelli che si sono crepati, tutti, là sopra, il giorno che è successo e tutto quanto? E noi, sì, noi faremo finta di niente, dare un taglio netto, amen, infilarsi i pattini e girovagare come spetta in questo labirinto. Ma dimmi, sì, dimmi, mi senti? Herbert adesso incombeva su di lui, una bella infieruscita che aveva perso ogni ragione. I suoi tratti erano corrosi dall'odio e il tagliacarte sarebbe potuto essere un pugnale, un mitra, un bazooka. Io li vedo, gemette lui, che era quasi un po' rito. Loro, sì, mi odiano, mi vogliono uccidere perché, sì, perché io sono vivo, perché sono qui, perché tu sei pazzo, ringhiò Herbert, minacciandolo con la punta acuminata. Ti sei convinto di avere il diritto di vita e di morte su tutti e ti costruisci le tue belle fantasie? Oh, ma che privilegio! Vogliono ucciderti, ma chi dovrebbe interessarsi a te? Stupido e inutile come sei. Perché non me, no? Me ne sto qui a cercare di farvi rinsavire, a rimettere in sesto i circuiti cerebrali che le bombe vi hanno fatto saltare, a curarvi, per Dio, a curarvi. E a me? Non c'è nessuno che curi me. Quando Peter fuggì, il suo analista preferito si era adagiato sulla brandina e ripoté e ripeteva tra sé e sé, sottovoce, antiche filastrocche, masturbandosi. Erano schizzo.com con il brano Bhagavad Gita. Ora si ritorna alla controinformazione, lo facciamo con l'ultima parte del testo dei compagni greci di Sinfonia del Caos, il terzo paragrafo del loro lungo testo che parla delle lotte intermedie. Il risultato della nostra analisi finora è il coinvolgimento nella questione spinosa delle cosiddette lotte intermedie e i modi in cui gli anarchici partecipano in esse. E quindi le seguenti preoccupazioni sorgono: se il significato dell'insurrezione anarchica permanente è la continua guerra contro il dominio, in che modo questo è collegato con le varie fonti di lotte sociali e politiche che scoppiano di tanto in tanto? Dato che ogni lotta simile è parziale, dobbiamo noi rimanere spettatori rinchiusi nelle torri d'avorio nella purezza ideologica? Le risposte date a queste domande da ogni individuo o gruppo sono ovviamente a loro discrezione e non basate su alcun dogma vincente o su una ricetta unica. Pertanto noi esprimiamo la nostra opinione personale. La caratterizzazione di una tale mobilitazione come le lotte intermedie assegna loro una particolarità, le definisce come parti di un puzzle strategico ed è il risultato di una logica che le concepisce come dei passi verso la distruzione dello Stato e del capitale, la rivoluzione, eccetera. Per noi la questione non è se una mobilitazione porta o meno verso l'obiettivo dichiarato della vittoria finale contro un pilastro del dominio, dato che una cosa simile sarebbe irreale. Principalmente ciò che conta è il suo scopo, è porre delle richieste al dominio con l'obiettivo di riformare alcune delle sue espressioni o meno. Per fare un esempio rilevante, una mobilitazione contro la costruzione di un aeroporto o un treno ad alta velocità, qualcuno può creare un contesto attraverso cui può richiedere alle addette istituzioni statali di cancellare il progetto. Però può puntare anche a sabotaggio delle costruzioni attraverso la pratica anarchica polimorfa, senza avere rapporti con le istituzioni e senza che le sue azioni delineano da sole dei limiti estremi, quindi una lotta parziale come il progetto in questo caso di inserire la critica contro la civiltà nella lotta anarchica generale fino alla totale distruzione dell'esistente. Tentando un'analisi più approfondita ci rendiamo conto che le mobilitazioni descritte variano sia nel contesto che nelle condizioni in cui si svolgono, anche negli obiettivi particolari. Un'analisi più approfondita di ogni singolo caso ci consente in primo luogo di indicare le sue caratteristiche e quindi capire se ci siano o meno possibilità di intervento o partecipazioni o no. Per essere più specifici, nelle mobilitazioni in cui gli obiettivi particolari non seguono la nostra visione della lotta, noi abbiamo la possibilità di intervenire indipendentemente e con le nostre proprie caratteristiche, mirando alla diffusione della teoria anarchica e alla pratica insurrezionale anarchica, a prescindere dal contenuto esistente o anche contro di esso. Nelle mobilitazioni in cui l'obiettivo parziale è una possibilità di incarnare la nostra teoria, pratica o gli imperativi generali, noi abbiamo la possibilità di partecipare sempre in modo autonomo e con le nostre caratteristiche, mirando a perseguire l'obiettivo attraverso una prospettiva anarchica insurrezionale. È importante notare qui che in tali casi noi non dovremmo trovarci intrappolati nell'obiettivo specifico a livello che diventa fine a se stesso o un'attività parziale divisa nella natura olistica della lotta anarchica. Infine, se in una mobilitazione non c'è spazio né per l'intervento né per la partecipazione, allora non abbiamo nessun motivo di occuparci di essa. Per noi queste procedure non sono passi sulla via verso la rivoluzione, ma piuttosto immagini di una continua guerra insurrezionale attraverso cui noi otteniamo l'esperienza, interagiamo con i compagni, evolviamo le nostre analisi ulteriormente e le approfondiamo e realizziamo la gioia dell'insurrezione in termini di autorealizzazione. In questa luce, quindi, le cosiddette lotte intermediarie non sono parti di un puzzle rivoluzionario strategico e neanche un campo in cui noi partecipiamo con l'obiettivo di deviare la lotta di massa in forme politicamente e praticamente più radicali, ma nell'opportunità per un'altra lotta in termini teorici, pratici e di livelli di valore contro il dominio. Lontano dalle nozioni di conciliazione, riformismo e mediazione, è fondamentale preservare le nostre caratteristiche per evitare di essere assimilati dalla folla eterogenea di protesta. La costante insurrezione anarchica ha bisogno di trovare dei passaggi di intervento e di arricchimento in quelle lotte che consentono la creazione del contesto del suo sviluppo polimorfo, intensificazione ed evoluzione. Gruppo anarchico Sinfonia del Caos. E questo era il testo di analisi e critica dei compagni Greci del gruppo anarchico Sinfonia del Caos. Ora ci ascoltiamo un altro brano, loro sono The Stone, Get Ready to Die, e poi dopo si torna qui e si fa l'ultima lettura del mini racconto di Vittorio Cuttoni nel bunker tratto da Retro Futuro. Già tutto decise, la voce era sardonica, irridente, solo un poco incredibile. Non posso continuare a chiedere marmellata di prugne se non ce n'è più, rispose lui a sua moglie scrollando le spalle. Oramai il dispensiere mi odia, un giorno o l'altro mi darà un purgante e voglio vedere come la metterai. Peter, stronzo, noi ti abbiamo già condannato. Mi hanno condannato, disse lui. Cosa? Wanda era furibonda. Tu non capisci più niente. Sei andato? Partito, scomparso, vivo con un fantasma. Porca miseria. Sua moglie infilò le mani nelle tasche del grembiule e lo fissò con sguardo severo. Metti subito quei pattini e vai al dispensiere. Certo che hanno la marmellata di prugne, idiota. Solo che agli imbecilli come te non la danno, per forza. Perché fai ridere. Sei patetico. Ah, ma io me ne vado. scendo al settore uomini e me ne cerco uno che sia capace di farsi rispettare. Tutti loro darebbero l'anima per una donna. Povero Peter, lo sbeffeggiarono dal muro. Una crisi coniugale, oh, che bel casino. Ma in fondo, a te che cosa te ne frega? Basta, urlò lui. Andate tutti a fare in culo voi la vostra maledetta rabbia. Frenetico mise i pattini mentre Wanda continuava a gridare gli istruzioni. Peter sbatté la porta del loro appartamento e volò via. Prese la strada dei corridoi che portavano ai piani superiori. Mi spiace, ma di qui non si passa, gli disse il caposettore inflessibile. Lei la pensa come crede, ma più in su non si va, ci sono regolamenti da rispettare. Vecchio, porco, fascista, grugnì lui. Non vi è bastato far saltare tutto? Se la ricorda quella magnifica giornata, no? Le sirene, no, oppure le hanno insegnato a non ricordare niente. Il suo comportamento è passibile di sanzioni, potrei sbatterla dentro, così, su due piedi, se fossi il porco che crederei, ma mi dia retta, torno indietro, perché non voglio crearle guai, d'accordo? Ma io devo uscire, rispose Peter accorgendosi che l'aggressività si sgonfiava di botto e senza ragione. Cerchi di capire, mi hanno condannato, io devo parlare con loro, devo fargli capire che è solo un caso, che non volevo, che io non sono responsabile. Tre bocche emersero dal muro carnose, piene, sanguinanti. In nome del tribunale del popolo, gli dissero, noi ti condanniamo alla pena capitale per aver contribuito con il tuo comportamento alla distruzione del nostro mondo. Questo è un avvertimento, questo è un inizio. Peter si mise a sbracciare, indicò il muro al caposettore. Li ha sentiti? Adesso io devo parlare con loro. Ah, sì, ok, li ho sentiti. Adesso però vuole tornare indietro, oppure chiamo qualcuno. Discese molto lentamente i tre piani che lo riportavano al suo appartamento. Il tempo gli parve infinito e innumerevoli le cose da pensare. Sotto le palpebre aveva l'immagine di Wanda quando era giovane e sincera, una bestiola che saltellava tra cose e persone districandosi meravigliosamente. Si ricordò anche del loro unico figlio Alfred Hitchcock, che quel giorno aveva 10 anni e quindi si trovava a scuola e quindi si era fuso nel magma incandescente della città. O magari no, si disse, forse è riuscito, sì, silent e sexy, a raggiungere un altro rifugio e sarà lui a tornare di sopra a ripopolare il mondo. Era una cosa che sperava molto. I pattini scorrevano silenziosi sul meraviglioso impiantito di cemento che il governo secoli prima aveva predisposto per tutti loro. Gli sembrava di ripercorrere ere geologiche lontane nella memoria, foreste primordiali. Si addentrava nei meandri del ricordo razziale stratificato e pianificato dalla tecnologia nucleare. Qui i dinosauri, qui i Cro-Magnon, qui l'età del ferro, qui, sì, qui, siamo già in Egitto. Continuò a ripetersi, ed era ritrovare un legame, un accordo, se non, forse, alla fine, una logica. Si fermò per un bicchiere di vino sintetico alla taverna del primo piano, quasi deserta. Il dispensiere di bibite gli regalò un calice di Dom Perignon senza il minimo commento. Comunque, adesso i conti quadravano. Peter Frampton, gli disse un occhio che spuntò dal bancone su cui riposava la zuccheriera. Tu, Peter, sei condannato a morte per i crimini che hai commesso contro l'umanità. Però ti è concesso un ultimo desiderio. Io sono onnipotente, rispose lui trincerandosi dietro il colore non troppo limpido del vino. E in ogni caso, nessun rimorso. No, in ogni caso non mi interessa. È una strada così facile. Lasciatemi solo tornare a casa, non chiedo di più. Certo, non vi devo dare molta soddisfazione. L'occhio si ingigantì, ne apparve un altro, le palpebre si alzarono e si abbassarono frenetiche. Come? Gli chiesero. Voglio dire che non me ne frega niente, che non sono nemmeno sicuro di poter giurare sulla vostra realtà e che per quanto mi concerne potete andarvi a farvi fottere, chi se ne sbatte di una vita di merda. Il viso venne fuori per intero, materializzandosi nella trama di quel legno che doveva essere genuino. La taverna era silenziosa, composta, quasi moribonda. In nome del tribunale del popolo, disse quel viso materializzatosi per intero, ti condanniamo a morte per aver contribuito. Ma lui afferrò il calice, lo strinse nel pugno, lo premette con tutta la forza di cui disponeva su quel volto repellente. Pezzi di merda, disse, siete solo dei pezzi di merda e ve la fate sotto, sì, all'idea di andare avanti, di dover lottare, sì, io vi dico addio. Aspetta, gridò la bocca che adesso era tutto ciò che restava sul bancone. Il tribunale del popolo ti ha condannato a morte per aver contribuito a rendere radioattivo l'intero pianeta, per aver commesso o permesso che la logica militarista prevalesse su ogni altra considerazione, per esserti reso corresponsabile. Ma Peter Frampton era già scappato lungo i corridoi che portavano in alto, su, in alto, in alto, in alto, tutto. Gli addii non sono mai strazianti, nemmeno dolorosi, e a voler guardare le cose nella loro essenza, mai strazianti. Semplicemente sua moglie che chiedeva un altro vaso di marmellata e che gli ha regalato un bacio sulla guancia in memoria dei vecchi tempi, anche se, però, a dir la verità, anche se non capiva bene perché. Ma adesso lui è sdraiato sul letto a notte fonda e guarda le braccia che si affollano sul muro infrangendo il suo diritto al sonno, perché il sonno è un diritto, e ritiene che la vita non abbia importanza. Ma la vita ha importanza, che sia solo una commedia macabra. Non esiste commedia macabra, che non ci si debba preoccupare eccessivamente, ma noi ci preoccupiamo eccessivamente. Su, forza, dice la prima pistola che spunta dal cemento e vorrebbe mettersi a ridere, sghignazzare, insomma compiere un gesto eroico. Dai, su. Dio, cane, basterà un colpo, però forse gli piacerebbe svuotare qualche caricatura, no? In nome del tribunale del popolo, attacca una voce mentre braccia e armi si agitano nel buio. Noi, in nome del tribunale del popolo, noi ti condanniamo a morte. Cristo, Dio, cane, grida lui, rizzandosi sul letto, cercando solamente di dominare la paura improvvisa che si agita nelle sue viscere, quella paura ignota, quella paura che lui non conosce, quella paura. Avete il coraggio di sparare? O devo fare tutto da solo? Radioazione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica.